di tempi d'alienazione. Amici, donne, tipo e buone, io coltivo corone. Tu prese mosaico, scambista sopra il piano. Il pavimento lui sì, tu non fare il magico. Credici e basta, capiamoci però. Mi capisci, ti ricordi ceri. Era d'inverno e ora odio, sono viola come l'armomilla. Tu sei il bello della tua famiglia. Tu fai brutto e il cattivo nella tua famiglia. E sei di California come gli anni 80. Sulla mia maglia c'è il mio nome. Buon gusto, hip hop. Buon gusto, hip hop. Dove sono i b-boys? Stanno nascosti sotto i parchi, dentro socchi in strada. Dietro vetri sporchi, bevono benzina bollente come sonnifero. Sputano, si scannano per un microfono, toccano e sfasciano tutto. Tutti fieri sino al culo di un nome. BG, chi è che li sfama i gatti randagi? Metti gli ermetici più ostili. Stanno appesi a fili sottili, li vedi? Gresti fatti, schiumano ad occhi bassi, stretti che sudano bestie. Non scrudano niente, no, non passano niente. Hanno borsoni coi suoni più buoni, buono chi sente. Buono, chi li tiene calmi, chi li teme bene, chi li dona inchiostro. Buon gusto, fradici, ladri di immagini, schiavi di scravi e vertigini, figli di... Buon gusto, di pop! Buon gusto, di pop! Buon gusto, hip hop. Buon gusto, hip hop. Scazzi, clay, frasi da manuale. Troppi bimbi vogliono fottere chi gli ha insegnato a pisciare. Ormai da troppo tempo fermo, mi riprendo la mia aria presa per strada. Ora i figli si cagano, ora se ci si battono. Beat is flow city, l'assenza è stata lunga. Ora si continua, prova a fermarmi, prova a girarti e parti. Strazza, stira, gira, cose nuove. Ascolta del buon rap e viaggia alla larga dalla cricca BGZ. Buon gusto, hip hop. Buon gusto.